She's a model and she's looking good. She might get in the neighborhood. A hood. Hood. Chiedo asilo. Sai una cosa, Drago? Cosa c'è adesso? Senti che stanno trapanando. Lo so, stanno trapanando. No, non stanno trapanando la tua bocca, stanno trapanando l'edificio. Comunque qui, ieri così. Abbiamo festeggiato il Mardi Gras, perché martedì ce ne siamo dimenticati. Sì, tu te ne quindi, sei dimenticato. Quindi, anche tu te ne tu, sei anche no, tu. Io no, io me ne ero ricordato, no. Però non ho detto niente. Perché, comunque abbiamo recuperato il giorno dopo. Purtroppo sì. Allora, sì. Mi è venuto in mente che per evitare di dimenticarci di festeggiare il venerdì domani. No, no. No. Sì. No. No, cosa? Dai, no, cosa? Dai, ferma, no, ferma. Domani ferma? Ti giuro, senti, dai, oh, domani guarda, ti giuro che oh, se ti dimentichi tu, la, mi prende la viscera. No, speriamo di no. No, ma nel senso allora buono, vai, che dai. Continuo da solo. Vabbè, dai, allora, basta, fermi questa roba qui. Se domani ti dimentichi del venerdì, te lo ricordo io, ok? Oh. Il bambino Alberto non c'è. E quindi? Come lo sai poi che non c'è? Non c'è, non c'è. Prova ad andare in aula, vedi un po' se c'è. Sarà malato. Ma no, poi tanto è giovedì e non è previsto il collegamento con la ricreazione, quindi chi se ne frega del bambino Alberto? Ma già, oggi è giovedì e non è... Vabbè. Se però vogliamo cominciare con un po' di buon umore e di rassicurazioni per il futuro, possiamo sempre ricordare a tutti che mancano 5 giorni alla fine del mondo. Evviva, ancora ben 85 giorni, Drago. Sì, ci chiedevamo ieri che fare tante cose. Cosa può fare uno in 86 giorni. Sì, te lo chiedevi tu. Oggi ci chiediamo cosa può fare uno in 85 giorni. E così uguale, fino alla fine, no? Meno. Quando mancherà un giorno solo, ci chiederemo cosa può fare uno in un giorno? Togliersi qualche soddisfazione, ad capito, esempio. Tipo? Ma qualche vendetta, qualche vendettuccia. Ma non quale ce vendettuccia? La vendettuccia. Ma no, una vendettuccia. Ma dai. Dai, gente che ti è sempre stata sul culo, Drago. Puoi andare lì e fare quello che non hai mai fatto in tutta la tua vita, ma che hai sempre desiderato fare, no? Mi sembra un proposito poco educativo per i nostri bambini dell'asilo, la vendettuccia. In realtà, quando mancherà un giorno solo la resa dei conti, dovremmo tutti perdonare coloro che ci hanno fatto un torto e vivere le ultime ore nell'amore condiviso dei propri simili. Amen. Freestyling. In radio c'è un coglione, in radio c'è un coglione. È il coglione Drago, il coglione Drago, il coglione Drago, il coglione Drago, il coglione Drago. Proprio quando uno suona. Pronto? Pronto, Etienne. Pronto. Manolito dall'ambasciata dell'Ecuador di Londra, giusto? Sì, signore, et bien, signore, se ricorda di me, signore. Sì, et bien, signore, sì. Bien, ma perché signor. Mi chiami sempre... Io ti ho detto che per Julian Assange qui non c'è posto, te l'ho già detto. Signor. Et bien, signore. Ecco. E quindi cosa chiami? La situazione è rimasta uguale che dall'altro giorno. Non abbiamo posto per concedere asilo al signor Assange. Meglio che resti lì nella vostra ambasciata dell'Ecuador, che sta bene. Va bene, grazie. No, no, signore, non è possibile, signore. Io non ritorno alla mansión después cinco meses y más. Mia mujer se già metida con un altro, con el vizinho de mansión. No, non allora... Tu, no, la mansión sarebbe la tua casa? È mansione, l'abitazione. L'abitazione, va bene. E tua moglie si è messa con il vicino di casa? È per forza. Io non so il jamás con ella. E ella si consola. Vabbè. È così, una così dalle mie parti, però la chiamiamo un altro modo. Ma il signor lo sa, però Manolito non che la fa más. Manolito vorrebbe ottenere un sostituto. Sì, ma scusa Manolito, tra l'altro sono cose che riguardano l'ambasciata, non l'asilo, capì? Quindi non sono la persona... Signor, siete la unica persona che mi puede aiutare. Sì, no, la mia mujer se estufa del vicino de mansión y se mette con el portaletras. Vabbè, Manolito, io capisco, farò il possibile, però dei tuoi problemi con la moglie... Signor Assange, che mi regniamo al trabajo, sempre al trabajo, ma, scusa Manolito, ma alla fine che lavoro fai lì? Evovinar las intercettaciones. Evovinar las intersectaciones. Sei suerdo, No, scusa. Evovinar. Evovinar están las intersectaciones y Manolito debe escuchar y escribir lo que bien dicho. Ho capito. Devi sbobinare le intercettazioni. Esatto, sì, signore, evovinar. Ora vado, ma richiamerò di nuovo, No. Senti, intanto potresti evovinare questa nostra telefonata, così me la mandi e capisco bene di cosa parli, perché io metà delle cose che dici. Ah, allora io vado a evovinare. Ecco, buon lavoro. Grazie signor. Ciao. Alla fine Marchione cosa fa con la Fiat Italia? Per carità, Cosa fai? Marchione quando gli dicono le parole Fiat e Italia legate insieme. Fiat Italia. Per carità. Ma come sarebbe? No, basta, non dite più niente. Ma pure lei aveva detto che... Non voglio sapere. Fabbrica Italia. Non sento. Ho capito. Comunque Marchione finora ha detto che la Fiat resterà in Italia. Ma infatti E lui ci ha anche provato a spostarla, ma è una Fiat, non parte. Ma molto divertente questo, vabbè. E poi se è la crescita che ci aspettiamo. Senti cosa ha da dire Marchione sulla crescita. Crescere è cool. Crescere è cool, vabbè, la pubblicità della nuova macchina che non vendi. Quindi diciamo che se crescere è cool, anche superare la crisi sarà sempre questione di cool, no? È così che ragiona Marchione. Sì, ma Fabbrica Italia? Per carità. Comunque la discussione tra Marchione e Della Valle negli ultimi giorni aveva raggiunto immensi livelli da asilo. Ricordiamoci, Della Valle che critica Marchione, Marchione che si chiede come può uno che ha sempre fatto le scarpe diventare di colpo un esperto del settore automobilistico. Che tra l'altro Marchione ha detto che una volta comprava le scarpe Tozzi, però adesso non le compra più. Ma Della Valle guida una Fiat. Ma va. E allora sono pari e patta, scusa. Ma lascia stare la patta, Drago, ci manca ancora che facciano la gara chi ce l'ha più lungo. Sì, Marchione e Della Valle. Che l'horreur, dai, ti dico. È un'idea invece. Sì, ma lascia stare certe idee, capa. Ma perché, dai, scusa, gara a chi ce l'ha più lungo? Mi sembra un tipo di gara che possono capire tutti, anche si può vedere, si può misurare. Oggettiva, però soprattutto è una gara a cui possono partecipare tutti, ma proprio tutti. Certo, anche noi, Drago. Dai, proviamo un po'. Ho vinto io. Come hai vinto tu, scusa? Ma come, Drago? Guarda, anche a occhio non serve neanche il righello qua. Cioè, vuol dire, sembra il doppio. Quando si fa le gare dell'uccello più lungo, viene naturale poi finire con una canzone di Deep Purple. Rocker, la chitarra, tutto quanto. Capito? A me viene proprio a fare. Ma come, non è una chitarra, Drago, è un kazoo. Vabbè, però per me, capito, non avendo la chitarra, mi accontento. Non avendo anche... esatto, è tutta una compensazione.